Undicesima unità. Presto arriverà l'estate. Dialogo. Progetti per le vacanze. Quest'anno non vedo l'ora che arrivino le ferie. Non so proprio come farò a resistere fino a luglio con questo tran tran. Intanto avrai fatto dei progetti. Dove andrai? Anzi, dove andrete? Io vorrei vedere l'Irlanda. Pietro invece preferisce la Danimarca. Cercherò di convincerlo. Che bei posti! E Marta che dice? È contenta? Lei non viene con noi. Come? La lasci a casa? Purtroppo lavora da poco, quindi per quest'anno niente ferie. Andate in macchina o in aereo? In macchina. E non vi stancherete a guidare per tanti chilometri? Penso di no. Quanto starete fuori? 2 settimane. Al ritorno passiamo da Ginevra. Come mai? Per vedere Brigitte, che frequenta lì la scuola per interpreti. Se non sbaglio, tu sai solo il francese. Come farete in Irlanda? Per fortuna Pietro se la cava abbastanza bene con l'inglese. Sono sicura che vi divertirete molto. Te lo saprò dire quando saremo tornati. Comunque, penso che sarà un viaggio più istruttivo che divertente. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Quest'anno non vedo l'ora che arrivino le ferie. Non so proprio come farò a resistere fino a luglio con questo tran tram. Intanto avrai fatto dei progetti. Dove andrai? Anzi, dove andrete? Io vorrei vedere l'Irlanda. Pietro invece preferisce la Danimarca. Cercherò di convincerlo. Che bei posti! E Marta che dice? È contenta? Lei non viene con noi. Come? La lasci a casa? Purtroppo lavora da poco, quindi per quest'anno niente ferie. Andate in macchina o in aereo? In macchina. E non vi stancherete a guidare per tanti chilometri? Penso di no. Quanto starete fuori? 2 settimane. Al ritorno passiamo da Ginevra. Come mai? Per vedere Brigitte, che frequenta lì la scuola per interpreti. Se non sbaglio, tu sai solo il francese. Come farete in Irlanda? Per fortuna Pietro se la cava abbastanza bene con l'inglese. Sono sicura che vi divertirete molto. Te lo saprò dire quando saremo tornati. Comunque, penso che sarà un viaggio più istruttivo che divertente. Vocaboli pagina 275. Viaggiare in treno. Andare al mare. Stare in albergo. Vocaboli pagina 278. Campeggio. Montagna. Piscina. Mare. Lago. Vocaboli pagina 282. Essere allegro. Essere depresso. Essere stanco. Essere annoiato. Vocaboli pagina 285. Albergo. Autostrada. Strada statale. Pensione. Notte. Giorno. Undicesima unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 22. Mare o montagna? Che progetti avete per quest'estate, signor Forti? Io vorrei andare in Kenya o in qualche altro paese lontano, però mia moglie dice che l'idea non le piace. I figli non sono riusciti a convincerla. Andrà a finire che torneremo per la 10ª volta alla nostra pensioncina sulla riviera Adriatica. Mia sorella Giuliana ha il problema opposto. Suo marito e i figli hanno intenzione di andare all'estero, mentre lei preferisce una vacanza tranquilla in un posto di mare, per esempio in Sardegna. Se si vuole riposare, non deve certo andare al mare. D'estate c'è troppa gente, c'è rumore dappertutto. Il posto ideale è la montagna. Anch'io le ho consigliato di andare a Canazei. Ci sono stata l'anno scorso e mi sono trovata benissimo. Ma sai, figli, Penso che vinceranno loro e Giuliana andrà all'estero anche quest'anno. E tu cosa farai quest'estate? Quest'anno ho deciso di fare una vacanza studio a Londra. A Londra in agosto? Che idea! Voglio perfezionare il mio inglese e l'unica possibilità è di andarci durante le ferie. Allora non saranno delle vere vacanze. Dipende da che cosa si intende per vacanza. Per me deve essere istruttiva, oltre che piacevole. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 292. Hai qualche idea per le vacanze di quest'anno? Non ci ho ancora pensato. Mancano più di 3 mesi alle ferie. Abbiamo tempo per decidere. Sì, ma se aspettiamo l'ultimo momento, non troveremo posto in albergo. Non hai proprio voglia di tornare a Riccione? Ci siamo andati per 5 anni. Adesso basta, vorrei cambiare. Ci sono tanti bei posti da vedere. Per esempio? Per esempio la Sicilia, che non conosciamo affatto. È vero, ma in luglio fa troppo caldo. Allora la Sardegna. 2 anni fa ci sono andati Giorgio e Sara e mi hanno detto che è bellissima. D'accordo, andremo in Sardegna. Ma dove esattamente? Sulla Costa Smeralda. Non sarà troppo costoso. Spenderemo una fortuna. Beh, invece di un mese ci staremo solo 2 settimane. Ma almeno vedremo qualcosa di nuovo. Ok, per quest'anno faremo come vuoi tu.